Cari amiche e cari amici, Brussellando ha avuto l'onore, in esclusiva, di dialogare con Lidia Martinico, cantante italo-francese di passaggio a Bruxelles, che ha presentato ai nostri ascoltatori il suo ultimo album, Al Dente. Sentiamo che cosa da dirci. Chi è Laura Martinico? Martinico, no? Una donna. Canto, scrivo, suono, un'artista completa, diciamo. È un sogno di bambina di fare queste cose. È la vita che mi ha portato su questa strada. E perché hai intitolato questo tuo primo album Al Dente? Al Dente perché sono pronta. Mi ha colpito molto questa cosa. Sono pronta. Ah, capito. Adesso. Sono pronta. Pronta per un'intervista, pronta per i concerti, pronta per i viaggi. Ho lavorato con artisti, ma dietro adesso posso lavorare. Se tu ti vuoi andare in... Sì, posso. Sotto i riflettori. Sono pronta. Non è lo stesso lavoro, eh? No, certo. Allora, com'è che è nata la tua passione per la musica? Da piccola, guarda, come un bambino che sente le musiche italiane a casa. E che cosa ascoltavi con musica? Oh, mio padre. Cosa ti ricordi? Sì, sì, mio padre. Che cantava mio padre? Gianni Morandi. Mm-hmm. Se non avessi più te. Gianni Morandi, mia madre, come si chiama? Bobby Solo. Ah, Bobby Solo. Sì, sì, ma vedi, vecchi artisti, eh? Però... Io ho lavorato pure con Lucio Dalla in Italia. Sai che l'abbiamo intervistato, Lucio? È vero? Purtroppo 2 settimane prima che morisse. Doveva venire a Bruxelles e non... Purtroppo non venne perché certo, però un po' stanco, lo salutiamo, continuiamo sempre a salutarlo. Sì. Quindi insomma la tua passione per la musica è nata da bambina, però poi farlo diventare la tua attività principale. Sì, ma è così, è la vita, veramente è la vita. Ho incontrato un batterista, sì? Ho incontrato un clavierista, come si dice? Un tastierista. Tastierista, ma là. Mm-hmm. E dopo, così, ho lavorato in studio con concerti con Salvador, Sacha Distel, musicisti, diciamo che è la vita, veramente. Ti volevo chiedere appunto questo su perché l'incontro con Henry Salvador è stato così determinante per te e anche poi per la tua carriera, ma soprattutto per te, perché ho visto che ne parli spesso. Sì, perché veramente ho avuto un incontro con quest'uomo particolare, è diventato il mio nonno, è diventato la mia famiglia, è diventato veramente molto importante per me. E quando è partito mi ha detto: io per favore fai il tuo mestiere che io voglio, ti voglio sapere bene. Dunque è stato un come mio nonno, così. E grazie a lui che faccio tutto questo, veramente. Ciao. No, infatti quando avevo letto di te, poi che sentendo parlare spesso in questi minuti, una storia d'amore, non so come dire, sì, una storia di famiglia, una storia importante. No, ciao. Capito. No, poi una cosa che mi ha colpito è vedere che tu provi a cantare sia in italiano che in francese. Sì, perché mio padre è italiano, sono nata in Francia. Sì. Sì, sì. Mio padre è italiano, mia madre franco-italiana. Ho studiato in Francia, sono andata dopo a Roma perché tutta la famiglia è a Roma, dunque ho fatto Parigi-Roma e mi sento veramente una metà in Italia, l'altra metà in Francia, e dunque ho fatto queste canzoni che... E cosa c'è della metà italiana che ti piace e della metà francese che ti piace? Parliamo solo delle cose che ci piacciono. Diciamo che la parte italiana è più simpatica. È la musicale, simpatica, mi piace fare la pasta, mi piace essere con amici. La parte francese, guarda che perché parlo francese e mi sento francese perché sono nata in Francia, sennò non è che mi va veramente bene. Io preferisco essere a Roma che ha Valente. Sì, sì, l'uccidente da fare. E per ritornare a, dicevi appunto, i cantanti, Gianni Morandi, Bobby Solo, canzoni che tu ascoltavi da bambina, ma nel percorso della tua vita, sì, quali cantanti italiani e anche quali cantanti francesi ti hanno colpito o, se vuoi, ti hanno anche ispirato? Italiani, diciamo che mi piace Claudio Baglioni. Che salutiamo, che avevamo. Sì, sì, ciao Claudio. Penso 4 anni fa ai microfoni. Mi piace molto veramente Claudio Baglioni. Eros Ramazzotti, perché era questo italiano che è venuto in Francia, molto conosciuto. Più i uomini che le donne. Non so perché penso che una storia di musicalità. Sì, di musicalità, credo. E i francesi? Francesi, non sono veramente. Ho lavorato un po' con una cantante francese che si chiama Nicole Croisi. Uh-huh. Perché la prima volta che ho suonato al pianoforte ho cantato una canzone di Nicole Croisi. Dunque ho incontrato con Nicole Croisi e cantava lei una canzone di Mia Martini che si chiama Una donna con te. Sì. E che è Une femme avec toi, femme, femme, une femme avec toi. E dunque lei cantava questa canzone italiana, dunque l'ho chiamato io e ho detto: senti Nicole, vuoi cantare con me? Abbiamo fatto un concerto a Parigi insieme con questa canzone, io in italiano e lei in francese. Molto bella. Sì, sì. Bene. Sì, sì. E tu, secondo te, ci sono delle grandi differenze nella canzone italiana e canzone francese oggi? O le senti oppure siamo tutti omologati? No, no, omologati no, non credo, perché veramente la musica è molto presente in Italia, a Parigi o in Francia. Non è che io nella mia famiglia il mio cugino suona la chitarra, un altro in Italia, sì sì, la batteria, un altro pianoforte, canta pure così, ma in Francia no. Non è veramente non è un paese di cantanti, di musicisti, non ha niente da fare, eh? No, l'Italia sì, si canta bene, no, è vero. Si scrive bene, veramente è un paese di. E quindi musica. che cosa c'è dell'Italia nelle tue canzoni? Credo che sono romantica e che sono canzoni di veramente italiane. Questa storia di. Guarda, sono romantica, diciamo, credo. C'è un po' di sole pure. Prima stavi accennando ai tuoi lavori in televisione. Sì. Com'è il mondo della televisione? Ma ho scritto della musica per la televisione, sì. Dunque. Non è che non ho lavorato con un presentatore, come si dice, sì. Ho lavorato indietro, ho fatto la musica per i film, per la TV, per le serie, dunque è un mestiere un po' difficile, non è molto simpatico. Ma che cosa si prova, per esempio, a vedere un proprio testo magari suonato o riprodotto in televisione, ma non da te? Tu sai di averlo scritto, ma che cosa, non lo so, provi qualcosa di particolare? No, io ho scritto la musica, sai, per una serie per i bambini, sì. Dunque ho avuto les images. Le immagini. Così io ho fatto la musica su questo film, sai? Dunque non è lo stesso mestiere, dunque non è che ho lavorato in TV veramente, ho lavorato per la TV, non è la stessa cosa. Soltanto musica sempre. E ti piacerebbe fare il grande passo e andare a cantare in TV? Sì, certo. Certo. Non è per. Attenzione, non è per fare la star, per oddio mio, niente da fare, no, è per essere conosciuta dal più grande pubblico, certo, e avere un po'. Ma è più. Io preferisco cantare sul palco invece di essere in TV. Ecco, venivo proprio a questa cosa. Qual è la tua relazione? Com'è la tua relazione con il pubblico in sala? Una storia di amicizia, veramente. Veramente. Cantano, ballano, veramente sì, una bella storia, è tutto. Quando esco del palco sono i miei amici dopo, dunque molto simpatico, sempre simpatico, all'italiana. Ma questo ti fa onore. Veramente, io, guarda, quando sono a Roma mi chiamano la Parisienne, e quando sono a Parigi mi chiamano la Rital, l'italiana, sì. Dunque, guarda. Vabbè, l'importante è avere il bello di tutte e due. Sì, sì, cerchiamo. Io ho avuto modo, cioè, di ascoltare le tue canzoni, ma la canzone che mi ha colpito di più di tutte è stata la canzone Male. È una canzone che mi ha colpito sia per le sonorità, ma anche per il testo, di cui comunque emerge un po' di tristezza. Sì. Me ne vuoi parlare malinconia, un po'? Diciamo. Sì, malinconia. Sì, un po' di malinconia. Di che cosa me ne vuoi parlare un po'? Sì, se vuoi. Dimmi, come nasce questa canzone? È una storia personale. Mm-hmm. Nella tua vita c'è l'amore e va bene o va male. per questo. E è stata una storia un po' importante per me, dunque ho scritto questa canzone. Come ci sono delle persone che vanno al psicologo, come si dice? Psicologo. E io scrivo così. Beh, mi sembra un'ottima terapia. Sì, veramente. Guarda, è colpita così, veramente. Mi sono messa al pianoforte e tutto male, sto male, e va. 3 minuti dopo la canzone. E quindi la musica ti serve a volte anche per superare quei momenti difficili? Sì, certo. Il mio pianoforte è veramente il mio migliore amico. Ma tu, quando componi una canzone, ti vengono prima in mente le parole o il testo? Ah, sempre la stessa cosa. Quando parli di pianoforte... Sì, sì, è tutte e due. Sì, sì, perché ci sono nelle parole des accents musicaux, accenti musicali. Sì. Dunque ho una parola e scrivo, e tutti insieme, veramente. Non è che devo, non riesco a fare la musica e dopo fare il testo o fare viceversa. No. Se scrivo per me, quando ho scritto per Anne Salvador, Tina Arena, ho scritto le parole, ho ricevuto la musica e ho scritto le parole, ma per me non è la stessa cosa, devo scrivere tutto insieme. Ti auguriamo un grandissimo successo per questo tuo album. Vediamo. Ci vuoi brevemente cantare un motivo della tua canzone che preferisci? Adesso devo cantare? Ma perché no? Un secondo, non c'è niente. 5 secondi per i nostri ascoltatori. Sì, certo. Una canzone che può. Che vuoi trasmettere ai nostri ascoltatori qui a Bruxelles? Non avrei? Dai. L'ho incontrato su una stella, un mercoledì d'inverno. Mi parlava della nebbia dolcemente, innamorato. Già cominciavo. Una storia troppo bella, una favola come nei miei sogni di bambina, e mi lasciava andare a quel gioco, mi lasciava amare. Non avrei pensato un giorno di vivere l'amore più bello che esiste sulla terra o nel mondo, sulla luna. Non avrei pensato un giorno libera di sentirmi più forte, più bella, vincere tutto grazie all'uomo che mi ama. Non avrei. Grazie. Prego. Grazie. Allora ti chiediamo un ultimo regalo, un saluto in italiano e in francese agli nostri ascoltatori di Bruxellando. Ciao, ciao a tutti, veramente grazie, grazie, grazie, e spero di vedervi presto sul palco. Spero. Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vous rencontrer très très vite en concert, en direct, parce que la radio c'est bien, la télé c'est bien, mais en vrai c'est mieux. Ciao à tutti. Grazie.